Oggi voglio fare un paragone che vi invito a prendere con gentilezza e non pensare che io invece manchi di rispetto alla parola di Dio. E il paragone è questo. In molte domeniche, ma soprattutto oggi, la Chiesa ci propone tante di quelle idee, tante di quelle riflessioni che a me pare di essere a un pranzo di nozze con un sacco di portate che alla fine si sciupa, si butta via. A meno che, e non è maleducazione, anzi, in America è intelligenza, ci si fa dare un sacchetto e si porta a casa quello che avanza perché è buono da mangiare, è pagato e lo si usa noi a casa nostra. Per questo io vi dirò qualche cosa oggi, poi vi invito, portate a casa il foglietto e se volete provate a sottolineare con un abiro le parole che più vi piaceranno. Ne troverete, perché la Chiesa quando parla della famiglia tocca la corda del suo cuore. Proprio perché all'inizio anche della vita cristiana c'è la famiglia di Nazareth, Maria, Gesù e Giuseppe. Ci siamo chiesti perché Gesù, venendo su questa terra, tra tutti i modi che aveva di comparire, poteva anche comparire all'improvviso, magari nella piazza di Gerusalemme, in maniera miracolosa, in modo che tutta la gente, miracolo, ma chi è costui? E da seguirlo. O altri modi, comparire già grande, comparire. Perché Gesù ha voluto scegliere la strada della famiglia? Per farci capire che lui benedice e santifica la nostra vita, le nostre famiglie, la vita identica alla nostra, la sua è. E allora, anticamente, e io in casa mia ho un piccolo quadrettino che apparteneva a mia nonna, in molte famiglie io vedevo che c'era un quadretto con la Sacra Famiglia di Nazareth. Io ce l'ho ancora, alla cornice tutta rotta, è un disegno abbastanza ingenuo, abbastanza classico, in cui appare Gesù in mezzo a Maria e in mezzo a Giuseppe. Nelle nostre famiglie era conservato quel quadro e quando c'è un quadro sacro tante volte ci si rivolge con una preghiera per chiedere la benedizione sulle nostre famiglie. Io sono così affezionato a questo che da sacerdote ormai grande ho cercato un pittore, un bravo pittore, e gli ho commissionato questo dipinto che vedete qui davanti a me. È mio personale, l'ho pagato, perché, e gli ho detto: forza Silvano, fammi un bel quadro sulla Sacra Famiglia, ma con Gesù grande, non più solo con Gesù piccolino. E lui mi ha dipinto questo quadro, a me molto caro, secondo me anche bello, in cui si vede Gesù che è diventato grande, ormai dice: sono cresciuto con te mamma, e vedete che ha raffigurato il pittore la Madonna ancora giovane, perché una mamma non invecchia mai, e ha raffigurato Giuseppe invece abbastanza vecchio. Ha detto: ciao papà, ciao mamma, io vado per la mia vita, per il mio destino, ad annunciare il Vangelo. Ma fino a 30 anni Gesù è rimasto in casa sua, e io, avendo davanti un quadro, alcune volte mi metto a fantasticare come poteva essere stata la vita di Gesù in casa sua. da piccolino o da grande. Da piccolino io mi immagino che sarà stato un ragazzo straordinario, che quando la mamma gli avesse detto, a quel tempo non c'era il rubinetto con l'acqua potabile in casa, bisognava andare alla fontana del paese a prenderla, e gli avrà detto: Gesù, guarda, siamo rimasti senza acqua, per favore prendi il secchio e vai giù a prenderla. Io mi immagino come la Madonna dava questo comando a Gesù, perché la Madonna era intelligente, non faceva lei i lavori come fanno le mamme d'oggi. No, lascia stare, faccio io. E con ciò viziano i figli, no? Invece gli avrà detto: per favore vai. E Gesù cosa avrà risposto? Momento, aspetta. Sì, adesso vado, un momento. Ma Gesù avrà ubbidito a sua madre? Benissimo. Io certe volte faccio funzionare la mia fantasia quando prego, perché mi immagino ciò che poteva succedere al tempo di Gesù, o in questo caso nella famiglia di Nazareth. Certamente anche sua madre avrà dato un comando fatto bene, come spero facciano tutte le mamme al giorno d'oggi. Allora, ti muovi? Ancora? Sei ancora lì? Ma su, ubbidisci? No, certamente la Madonna sarà stata gentilissima con suo figlio. Voi mi direte, ma aveva un figlio gentilissimo e obbediente, avete ragione. E noi dovremmo pensare a questo per dire, e noi come facciamo? Ecco i modelli da imitare. E poi penso a suo padre, a Giuseppe, che sapete non era vero suo padre, perché suo padre vero è Dio. Lui era il padre che l'ha adottato, però gli ha voluto bene come tutti i padri che adottano un figlio, che adottano una figlia, che gli danno il loro cognome, che gli danno la loro casa, che gli danno il loro conto corrente. Un vero padre, Giuseppe, per suo figlio adottivo Gesù. E come gli avrà insegnato tutti i trucchi del laboratorio. E io mi immagino Gesù come guardava a Giuseppe che lavorava, e siccome anch'io sono cresciuto in una bottega di artigiani, mio papà costruiva le poltrone, i salotti, e io fino a 20 anni, non ero ancora in seminario, fino a 20 anni studiavo, ho fatto il liceo, e intanto lavoravo in bottega con mio padre. E mio padre aveva un'espressione interessante: quando vedeva un operaio che imparava subito, diceva con un'espressione dialettale: quel ragazzo lì ruba il mestiere. Cioè, è così intelligente, è così attento, è così volonteroso, che gli fai vedere una volta la cosa, panfete, l'ha già imparata e la fa anche lui. Io mi immagino che Gesù era un apprendista nella bottega di Giuseppe in questa maniera. E poi bisognerebbe continuare con la fantasia, bisognerebbe pensare come ha vissuto. Guardate, io ho detto due parole, mi fermerei anche qui, ma vi suggerisco altri spunti, ve li leggiucchio, ve li cito, perché se portate a casa il cibo avanzato, se portate a casa questo foglietto, potete approfondirla voi. Non so se vi siete accorti che la prima orazione era un'orazione lunga ma bellissima, in cui si diceva: concedi, a metà orazione, o Signore, concedi ai coniugi, agli sposi, le grazie della loro missione di sposi e di educatori. Notate che prima si sottolinea che l'uomo e la donna sposati sono sposi, prima di essere papà e mamma, di sposi e di educatori. E io mi chiedo, quanti errori nelle famiglie si fanno perché prima si mettono i figli. È sbagliato. Già, lo dici te che non sei sposato. Certo, non sono sposato e vedo le cose bene dal di fuori. Cara mamma, caro papà, in genere sono le mamme, però che le capisco, hanno portato un figlio per 9 mesi, gli hanno dato il loro sangue, gli hanno dato il loro latte, però prima mettono i figli e succedono i grandi disastri che succedono nelle famiglie. Io quando confesso le persone, quasi tutte dicono: abbiamo litigato per i figli, perché uno dice così, l'altro dice cos'ha, e io ripeto sempre: ma prima hai avuto i tuoi figli o prima hai avuto tuo marito? E mi guardano in faccia come se fossi stupido e mi dicono: prima ho avuto mio marito, è logico. E perché adesso metti prima i figli? Io vi lascerei solo questo pensiero, cari papà e care mamme: il vostro amore tra di voi. Magari sono in piazza della chiesa, vedo che c'è lì un papà e una mamma ancora giovani con il loro bambino piccolino, e dico al bambino: ciao, quello lì è il tuo papà e la tua mamma. Sì, ma qualche volta li vedi che si abbracciano e che si baciano oppure no? E lui vergognoso mi fa: ti... E dico: allora sei fortunato, perché se vedi che tuo papà e tua mamma si baciano davanti a te, sei fortunato. Magari la mamma interviene e dice: quando vede che facciamo così, si intromette: la mamma è mia, la mamma è mia. Cari sposi, vi auguro veramente la felicità nelle vostre case, però alla luce di quello che dice anche la liturgia, che dice la Chiesa, vi auguro di riscoprire prima la vostra sponsalità e poi la vostra paternità e maternità. Sarebbe un discorso sul quale potete anche darmi torto, perché questa non è parola di Dio. Però io ho 40 anni che seguo le famiglie e ho lavorato anche nei consultori cattolici della famiglia, e credo di sapere il fatto mio. Quando la coppia gira bene anche la famiglia, ma se la coppia non gira bene, povera famiglia. Mi fermo qui, ma se portate a casa il foglietto vi invito a leggere con la biro in mano il prefazio. È un prefazio, poi lo reciterò, meraviglioso. Concludo: la festa della famiglia di Gesù, mi auguro che sia anche la festa della vostra famiglia.